tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Eu ando perto de ser certo, de ser o rei, mas Yeah! e platina. Gridare al mondo che sei cara, tanto cara è la mia bambina. Certo, con altra mai la grazie di tutto quello che mi dai, la comprensione bene che mi vuoi, la tenerezza che io trovo in te, mi fa gridare al mondo che sei cara, tanto cara è la mia bambina. Certo, da UV o un ritmatina. Yeah. changing.